Pronto, ciao, io mi trovo vicino in Lungotevere Papareschi, esattamente in via dei Papareschi, alla fine quasi verso il numero 30. Siamo tre movimenti Lotta per la Casa, BPM, Coordinamento Cittadino Lotta per la Casa e COC. Abbiamo occupato una ex caserma, in realtà abbandonata da anni, per cui diciamo già le prime voci qua nel quartiere di chi diciamo sta, c'è una scuola qua davanti, delle signore, delle mamme che vengono a prendere i bambini, sono: avete fatto bene, questo spazio è rimasto abbandonato da tanti anni. E diciamo, noi abbiamo già da anni in piedi la battaglia sulle caserme, su tutti gli spazi, il Ministero della Difesa, che comunque diciamo stanno praticamente spendendo per fare diciamo appunto beni di lusso fondamentalmente, per cui stiamo cercando di portare avanti la battaglia sul recupero della città invece di costruire e continuare diciamo ad attaccare le campagne romane, perché non recuperare gli spazi che già si trovano all'interno della città. E niente, adesso diciamo siamo entrati dentro, sono arrivata la polizia, ma ancora insomma non c'è una situazione di diciamo di sgombero, nel senso che stiamo cercando comunque di portare avanti una trattativa, siamo in tantissimi, effettivamente nel senso il numero è veramente alto, stiamo cercando di capire un po' come andrà avanti la situazione. Per qualsiasi cosa insomma io vi terrò aggiornati su come andrà avanti, insomma.